Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sapete come mi accorgo, seduto nel vagone del mio treno, dei cambi stagionali? Ma non dal tempo fuori del finestrino, che in fondo è sempre uguale, sorprendente e atipico rispetto al nostro condizionamento meteorologico. Me ne accorgo dalle vetrine dei negozi delle stazioni. Scendo velocemente da un treno e ne prendo un altro, però passo davanti alle cartolerie, alle giocattolerie, ai negozi che dentro le stazioni ormai rappresentano il percorso obbligato, come nei caselli delle autostrade occorre fare il giro attorno al prosciutto, al pepe nero. Beh, io vedo che le vetrine sono cambiate e già ci sono le mascherine di carnevale. Quindi non mi sono sorpreso quando, entrando poi ripartendo con il mio treno, ho visto una signora vestita, non so, da Peppa Pig o qualcosa del genere. Era una macchia rosa fucsia. Poi, soltanto poi, avvicinandomi, mi sono accorto che era Lady Pink, che già altre volte avevo visto e incontrato e mi aveva raccontato la sua vicenda. Oggi aveva uno sguardo particolarmente triste e deluso, che contrastava con il gaio colore dei suoi vestimenti. Credo molto euforica, è passato un bel periodo l'ultima volta che siamo visti. Cerco di dimenticare, mi autoalimento. Perché cosa è successo? Una tristezza infinita. Vabbè, ma sempre, perché le donne mi raccontano sempre di tristezza? Ma che volete di più dalla vita? Siete femmine, già avete un vantaggio indubbio rispetto all'umanità, che l'avete in pugno. E su questo non ci siete, siete un bene di consumo privilegiato. Che volete di più dalla vita? Non lo so. Probabilmente se ci fosse qualcosa di più entusiasmante, di più divertente, forse saremmo anche un po' più felici. Dimmi la ragione, allora, diamo concretezza alle ansie. Dimmi esattamente il motivo concreto in questo momento della tua tristezza, in questa fantastica mattina in cui è apparso anche il sole. Se non fosse per il mio mal di gola, sarebbe una bellissima mattina. Sarebbe una bellissima mattina se avessi passato una serata entusiasmante, ma la mia serata è stata veramente terrificante. Quali erano le tue attese? Le mie attese, una serata non romantica, ma una serata piacevole, con un uomo che pensavo, anzi lo ritengo comunque un uomo brillante, però dalla dubbia sessualità, ecco. Sempre lo stesso problema. Quest'uomo l'avevi conosciuto? Era la prima serata che passavate assieme? Era sì, la prima serata che passavamo insieme, dopo aver esserci conosciuti telefonicamente per lavoro, incontriamoci anche per piacere, e il piacere non c'è stato, anche perché insomma sono andata molto diretta, gli ho chiesto se era gay, lui mi ha detto di no, e però mi rimane il dubbio, perché aveva questa manina che sventolava ogni tanto, che non riusciva a dominare, capisci? Quando ti parte la manina e dai la virgola nell'aria con la manina, aia, lì ho detto ci siamo. Vabbè, scusami, adesso permettimi, io capisco. Dimmi. Cosa ti aspettai da quest'uomo? Un collega che decide di uscire con una collega, che una collega, una persona conoscente con cui si è sentito soltanto al telefono, e può essere divertente, ma dai anche lui i suoi tempi. Non puoi pensare che sia un oggetto che devi spremerlo come un tubetto identificio subito. Ma anche sì, cioè, ma non, perché? Non abbiamo più tempo. Vabbè, allora scusami, prendi un catalogo gigolò, trovatene uno bello nerboruto, almeno sai quello che è. Cioè, gratis non puoi avere l'immediata prestazione, ma vale per gli uomini anche per le donne. Vabbè, ma dopo un mese di telefonate, messaggi... Ma telefonate e messaggi di lavoro o diciamo di propedeutiche all'incontro? Propedeutiche, con qualche accenno lavorativo. Ma neanche telefonate, solo messaggi. Tu capisci che quando un uomo... Cioè, cuoricini... Ste puttanate qua. Melanzanina, no, quella no. Sì, va bene, ok, abbiamo capito, andiamo oltre. Andiamo oltre, abbiamo capito. Allora, ti rispondo. Rido anche in modo abbastanza forzato alle tue battute, che possono anche essere abbastanza divertenti, va bene. Rispondo ai tuoi messaggi, ti do corda, beh, ma mi pare abbastanza evidente che comunque, insomma, c'era trippa per gatti. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. E vabbè, questo è vero. Allora, il passo successivo non è stato in grado di farlo. E siamo andati a cena? E siamo andati a cena. Ecco, sì. Mi spieghi una cosa, scusa, la mia curiosità, essendo di vecchia generazione ormai... Purtroppo queste occasioni a me non capiteranno mai più nella vita, e quindi mi rassegno. Perché ancora voi giovani andate a cena, che è una cosa così arcaica? Che senso ha intripparsi la panza, riempirsi i denti di residui alimentari per poi dover passare alle gioie dell'amore? Non è meglio fare il contrario? Amarsi prima, poi magari rifocillarsi con una bella cenetta? Assolutamente sì, mi trovi assolutamente... Perché nessuno lo fa? E che cacchio ne so, è il protocollo ormai nel nostro DNA, è... Cioè, il bacio con ruttino, ma pensa che cosa orribile, la puzzetta che scappa nel momento della passione. Cioè, meglio prima ci si ama, ci si stravacca e poi si mangia. Ma si può anche fare la cena, perché voglio dire, chi se ne frega della cena? Anche perché poi, se tu ceni prima con un uomo, scopri molte cose che non sono neanche belle, che magari impugna la forchetta male. Ma anche tipo, per le donne, sai, Ecco, e beh, quello senz'altro, io invece riferimento all'uomo, per cui vedo certi uomini che prendono la forchetta e la utilizzano come fosse una cazzuola, capito? Col pugno bello stretto in fondo, oppure fanno scricchiolare, scivolare il coltello e fanno quei rumori assurdi sul piatto, che è una cosa che mi irrita terribilmente, o peggio ancora, prendono il bicchiere, pensano di capire qualcosa di vino, non capiscono niente. Quello è terribile, niente, quello è terribile. Sporcano il bicchiere con le mani, una tragedia. Quindi a volte è meglio farsi una bella sana trombata, così non vedi il terrore. Beh, vedi altre cose, vedi l'unghia incarnita, vedi l'ascella puzzolente. No, fai tutto con... cioè, boh, fine, lo fai giusto. Senti, ma perché nei film zozzi gli uomini tengono sempre i calzini corti e bianchi, me lo spieghi? Non lo so, penso che... I film zozzi amatoriali? Si vede ogni tanto, si vedono le foto così. Gli uomini c'hanno sempre i calzini corti e bianchi. Ti tolgo mai i calzini, come mai? Secondo te? No, non so. Sono nuove generazioni. Non so. Ma per una certa categoria di donne potrebbe anche essere erotico. Ah, erotico il calzino corto e bianco. Gli uomini c'hanno tutti i calzini. Secondo me per un motivo ci sarà, non per me assolutamente. Forse perché gli puzzano i piedi e tengono il calzino che conservano, o hanno i piedi poco in ordine. Me lo domando, come le donne tengono le calze? Non capisco perché le donne tengono le calze, che gli lasciano il segno dell'elastico sulle cosce. E beh, quelle sono sexy. Ma gli uomini il calzino corto bianco che c'ha di sexy? Quello di spugna, quello da sport. Oh, triste, non lo so. E va a vedere, tu cerca amatorial, capito? E vedi tutti sti ometti con i calzini corti. Non lo so, è terrificante questa cosa che mi dici. Forse preferisco andare a cena con... Hai mai avuto uomini a letto col calzino? No. Beh, sei già fortunata, già escluso. Evidentemente sì, è una categoria. Il problema che, essendo sempre andata in Ferrari, adesso che insomma le Ferrari sono finite, ci sono solo più delle macchine scadenti, capisci che adesso il problema è questo. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Torniamo alla tua cenetta con l'uomo che sventolava le virgole. Allora, tu vai a cena con questo, chi sceglie il locale? Lo scegliamo insieme. Va bene. Un ventaglio di proposte. E che tipologia è di locale? Bistrò, queste cose che vanno oggi? Sì, un bistrò. Ecco, no. Ma perché oggi tutti vanno al bistrò? Tu mi devi spiegare perché negli ultimi 3 anni il bistrò è diventato, che era una cosa lontanissima dal nostro immaginario. Mia nonna diceva: posso andare al bistrò? Adesso vanno tutti al bistrò, che in realtà sono dei posti in cui viene ricostruita una sorta di arredamento, architettura primi 900, così, parigina, che non so cosa c'è. Comunque tutti bistro. Si va al bistro, perché al bistro secondo te? Ma forse perché la serata era una serata infrasettimanale, per cui era meno impegnativa. E probabilmente anche l'ambiente, no? Più confortevole e meno ingessato di un ristorante. Perché dall'aria che il bistrò c'è un sottofondo trombereccio, diciamo la verità. Si va al bistrò, si beve Parigi. Ma infatti. Vabbè, al bistrò si va perché... Ce la contiamo. Alla fine l'obiettivo era quello. Ok. L'obiettivo era quello. Il solito vecchio, antico e marcescibile obiettivo, sì. Io l'avrei saltata pure la cena, perché tanto era palese, però cazzo. Che avete mangiato? Carne. Io sono carnivora. Vabbè. Non sono vegetariana. E quindi si mangiava e si parlava. Verrate già detti tutto via chat nei mesi precedenti. Che altro vi siete detti? Abbiamo insomma parlato un po' del lavoro, eccetera. Sono andata un po' più in profondità. La cosa carina è stata che a un certo punto si è soffiato il naso. E che il schifo. Dettaglio. Vabbè, aspetta. Ha guardato anche dentro il fazzoletto? Ma no, quello no. Però aveva il fazzoletto di stoffa. Esistono ancora? Ma esistono ancora? Esatto! Infatti io sono rimasta stupita di questa cosa. Non lo sai qual è lo schifo? Pensare, chi li lava poi i fazzoletti col moccico dentro schifoso? Ecco, bravo. E tu lì che sei arrivato. Il problema è questo. Si lava da solo? No! C'è la mamma gli lava i fazzoletti. Esatto. E quindi gli controlla anche le sgommate sulle mutande per vedere se è stato a donna. È terribile questa cosa. Lui è tornato a vivere con i suoi a 30 anni, è tornato a vivere con i suoi. Ed è molto contento di essere tornato a vivere con i suoi. E non, è stata una scelta felicissima. E il fatto di tornare a casa e condividere con mamma e papà le gioie del suo lavoro lo rendono una persona migliore. Beh. Al che in quel momento le mie ovaie sono cadute per terra. Cioè, hai capito che non c'era più trippa per gatti. Esatto. Ma che ti portava, scusa, a prendere il rosolio a casa della madre dopo? Cioè, ne vogliamo parlare? Ma qual era l'alternativa del dopo cena? Fammi capire. Onirica, ipotetica, qual era l'alternativa? Ma andiamo a casa sua, fammi vedere. Ma c'è la mamma? E che cacchio ne sapevo io che questa cosa me l'aveva celata. Cioè con la vecchia, con la vecchia in salotto ti portava. Ma quell'infame me l'aveva celata la cosa. Tu capisci il problema? Cioè per me era normale. Io vivo da sola, a 40 anni, vivo da sola, tutto a posto, fine. E ti ha proposto di andare a casa della mamma? No. No, mentre si cenava è venuta fuori questa cosa che aveva omesso, quindi lui ovviamente pensava che io lo portassi a casa mia, ma non c'è stata storia, ma neanche ci penso, cioè tanto la cosa era già finita nel momento in cui mi ha detto che è tornato a vivere con mamma e papà, capito? E quindi è stato terrificante. Quindi tu diciamo che dal dessert al caffè hai detto che ormai era tempo perso, hai pensato? Diciamo. Assolutamente sì, infatti no, non ce la facevo più, ho saltato il caffè, ho saltato il dessert, vabbè senti, se è fatta una certa forse è meglio andare, e così. Ma lui è rimasto male o ha avuto un po' di sollievo che tu alla fine non chiedevi altro? Non lo so, credo che insomma sia rimasto un po'. Ma lui, allora, secondo te, facciamo delle ipotesi, cosa si aspettava dalla serata? Di conoscerti e magari approfondire la conoscenza in un lungo e casto fidanzamento? Di estorcerti una prestazione sessuale a casa tua, mordi e fuggi? Di portarti a casa e farti conoscere la madre e avere una giustificazione per nascondere la sua probabilmente celata omosessualità? Qual è di queste ipotesi? Non lo so. Io ho visto il buio in quel momento. Io ho visto il buio, non ho più capito niente. Cioè, ho capito solo una cosa: che volevo fuggire da quel ristorante e punirmi per aver perso del tempo con un coglione. Un altro ennesimo coglione. Beh, la cogliona sei stata te, perché scusami, ormai certi sintomi dovresti capirli chattando dopo un mese con una persona, no? Sì, ma gli ho lasciato il tempo, perché siccome nelle altre situazioni sono molto più agguerrita, mangio più velocemente i tempi, con questo ho detto, beh, avrà il suo tempo, è un po' più giovane di me perché ha 10 anni meno di me, e quindi ho detto, gli lascio il tempo, c'era la scusante, oddio. Ti faceva anche un po' tenerezza, magari. Cioè, ma sì, cioè, ma già gongolavi nell'allucinante paradiso di fare la nave scuola a un povero ragazzino che aveva tutto da imparare, di la verità. Un cazzo un ragazzino, permettimi, a 30 anni per me uno è un uomo, a prescindere. Vabbè dai, convivi 30 anni ancora, poverino. Ah, 30, cioè 33 anni secondo me è un uomo. Beh, gli anni di Cristo si diceva una volta, certo, sì, un'età. Allora, non riesco a capire per cui il motivo per cui adesso uno a 33 anni deve essere un ragazzino. No, per me. Come vi siete lasciati? Ciao, allora ci vediamo oppure proprio ciao? Ciao, allora ci sentiamo. E t'ha più chattato? Sì, vabbè. T'ha mandato, è stata una bella serata, grazie. Grazie, sì. È stato molto bello conoscerti. Io neanche il cuoricino, ma il pollice alzato. Avrei voluto mandargli un altro. No, il pollice alzato è quello lì, col dito medio. Sarebbe stato più opportuno, però vabbè. Insomma. Potrei anche mandargli direttamente la melanzana o la pannocchia a questo punto. La melanzana sarebbe stata forse la cosa più. O anche la pannocchia ci sta bene. Ecco, sì, probabilmente la pannocchia forse avrebbe letto quello che. Che giustamente si meritava. Esatto. In qualche posto. Ecco. Va bene, grazie. Ciao, un bacio. Mollo Lady Pink alle sue delusioni amorose, risalgo su un altro treno e chi trovo? La ragazza con la chitarra, che però ha un bel sorriso, finalmente. È un cambio generazionale probabilmente di questa ragazza che è totalmente confondibile con qualsiasi altra studentessa nel suo sedile, comodamente seduta con la sua chitarra in mano. Tu ti è mai capitato di conoscere qualcuno su internet, però poi l'hai conosciuto dal vero, dal vivo ed era completamente differente? Boh, guarda, io mi relazioni a rete dal 1995 circa, quindi ho fatto tutto l'escursus. Molte volte, molte le persone che frequento l'ho conosciuta in rete, onestamente, colleghi, amici, amiche. Sì. Io conosco una persona che il suo marito l'ha conosciuto su internet. Ma tanta gente si è sposata e sono conosciuta in rete. E invece un'altra situazione veramente paradossale che mi è capitata personalmente, ma la scorsa settimana, di due persone che si sono parlate per 3 mesi su internet e poi si sono incontrate qui a Roma, non vivevano nessuna delle due a Roma, hanno passato insieme una notte, dopodiché hanno detto basta, tu vai per la tua strada, io vado per la mia. E mi hanno detto a me, ma tu pensi che sto facendo bene a dire no, non ti voglio conoscere ulteriormente? No, ma è veramente insopportabile questa donna. E lei veniva da me e mi diceva, no, lui è veramente insopportabile, si sta perdendo tante cose. Dici che facciamo bene a non conoscerci di più? E dico, non lo so, vi state scannando. Dipende quali erano le aspettative. Se l'aspettativa era di una relazione profonda, perché nel chattare in rete si erano innamorati l'uno dell'altro, cosa che è molto facile perché hai solo una visione parziale della persona, ognuno dà il meglio di se stesso. Il cafone diventa un poeta, la cozza diventa seducente, sì. È così, no, diciamocela così. Ci si incontra e si prende contatto con la dura realtà che nell'incontro diretto la vedi subito. È chiaro che c'è però uno scalino. Che scrivi. Cioè, per 3 mesi sei te che scrivi, poi se dopo 2 minuti insieme uno si scanna, allora che senso ha tutti quei 3 mesi di prima? Allora veramente. A volte stare a distanza e non conoscersi fisicamente non conta nulla. Se poi uno si conosce fisicamente, cancella tutto quello che c'è da dire. No, non è possibile, non eri la persona che pensavo e via, finito. Ti faccio un esempio. Tu vuoi comprare una casa, ti faccio vedere il salotto, fantastico, dici che bello, stupendo. Sul salotto ti rendi conto e pensi la casa sia tutta come il salotto. Sì. A vedere i bagni fanno schifo, la cucina fa schifo, le camere da letto fanno schifo. Non è l'altra parte, non è assolutamente ristrutturata. È chiaro che è una delusione. Se rimani in salotto tutta la vita e rinunci a guardare il resto della casa, sarai convintissimo di aver preso una bella casa. Perciò vale per le persone, certo. Tu pensi che in internet uno mostri il salotto, la parte più bella di sé? Certo, chi è mica. Ma è mica male, scusa. Voglio dire, ognuno c'ha il bagno che magari non è sempre tanto pulito, però se c'hai la parte più bella di te, è ovvio che è la prima cosa che metti in mostra. Poi che fai? Allora fai finta di non vedere il salotto? Ah no, c'è solo il bagno che fa schifo. Allora, cambiano completamente i parametri di relazione tra esseri umani. Le persone si conoscono in rete e devono capire che comunque sarà una profonda e molto più veloce maniera per entrare in intimità con una persona, e ci sarà un redderazione, devi saperlo. Redderazione può portarti comunque a scoprire qualcosa che ti piace o qualcosa che non ti piace. Così, fine. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Abbiamo fatto una notte d'amore che avrebbero fatto magari anche... No, nemmeno. No, hanno preso una... Una stanza? Sì. E... Non hanno avuto il coraggio di entrare? No, io dormo da una parte e lui dorme dall'altra. Beh, anche lui, forse anche lui c'aveva qualche problemino, perché... No, ma poi la cosa strana è che dico, appunto, no, approfittatene, no? No, evidentemente ci sono troppe aspettative. C'è un'aspettativa fortissima, non sono piaciuti a pelle. Lei deve rendersi conto che a lui lei non è piaciuta, e a lei lui non è piaciuto. Non gli piaceva l'odore, non gli piaceva lo sguardo, non gli piaceva come si muoveva. E ha detto, ma che sto a fare qui con una persona che mai nella vita mi sarei avvicinata? E così è fatto. Però magari per 3 mesi stavano lì. Ma perché hanno perso 3 mesi? Vanno a vedersi dopo una settimana, perdendo meno tempo, non cambiava nulla. Hanno voluto compiacere un aspetto narcisistico, onirico della relazione. Si sono misurati su qualcosa che non era completo. La relazione è poi una cosa completa. Guarda che avviene anche nei sistemi tradizionali. Tu conosci una persona, ci esci 2 volte, sembra fantastico. Sì, poi nella frequentazione, dopo 10 anni che sei fidanzata, rendi conto che non era la persona per te. Oggi è tutto più veloce, ma meglio così che non hanno perso tempo. Scusa, meglio così. Sì, no, è vero. Invece, io ad esempio Facebook, che tutti quanti dicono, ah beh, ti basi sull'apparenza eccetera eccetera, a volte grazie a Facebook ti capita di invece scoprire persone che poi tu non avresti mai pensato di scrivere a quella persona, così poi magari ne incontri e dici, porca miseria che mi sono perso, comunque che bello rivedersi eccetera eccetera. Cioè non puoi mai sapere. Ma io devo sapere dov'è la meraviglia, che l'essere umano sia una creatura complessa, perché è dotata allo strumento della cultura che crea un'infinità di sovrapposizioni rispetto alla realtà. La domanda è quella che mi è stata fatta, ma com'è possibile che per 3 mesi o 2 settimane o anche un mese uno si conosce in un certo modo e poi sembra come se dal vivo mette più barriere a volte, no? Perché semplicemente ti puzzano le ascelle e non ti piace, è tanto semplice. Cioè, perché cerca sempre soluzioni poetiche? Hanno detto questa vabbè, cosa, beh, questo però. non gli piace, c'ha i denti sporchi, è pelosa, oppure lei era sconnessa, c'aveva il culo flaccido, ma ci sono mille motivi per cui una persona non ti piace. No, vabbè. Okay. Se tutti i difetti di una persona li acquisisci con il colpo d'occhio e poi li rivedi sotto il fatto che una persona è intelligente, che ti piace tutto, ci passi sopra e non ci pensi, non li vedi più. Una persona che ti piace, che ti affascia, non mi chiede a vedere se c'ha la smagliatura o se l'uomo c'ha i capelli non a posto, non è questo. Però quando si è creata una grande aspettativa, che una persona ti dà il massimo, certo, di sé dal punto di vista della poetica, della costruzione, del pensiero, ogni cosa diventa una barriera, sì, insormontabile. Poi però magari manca l'altro 50%, che è quello importante. Loro erano attizzati di testa e pensano che il corpo corrispondesse all'attizzamento di testa. Non è così, non funziona. Cioè, puoi parlare tutta la notte, però non mi toccare, questo è il punto. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Potremmo fare cose un po' più graduali, secondo me, vedersi per prendersi un caffè, di solito funziona così. Che poi è l'opposto di quello che ti accade quando sei sul treno, ad esempio. Non sei sul treno, hai l'approccio, diciamo, fisico, ce l'hai subito, ti manca l'altra metà. Beh, basta scendere alla stessa stazione. Poi... Ci sono delle... Ma nella toilette... Si guarda. Del terzo... So che dico una cosa politicamente scorrettissima. Nella carrozza numero 3 c'è la toilette attrezzata per le persone disabili, che è molto spaziosa. E uno va lì e consuma. Sì, è vero. No, è vero. Se proprio vuole, capito? Anche se è bruttissimo. Sì, vabbè, anche perché uno potrebbe semplicemente iniziare a sedersi vicino. Fare le cose più graduali vale anche per questo discorso. Un cappotto sopra come nel cinema negli anni 60. Scusa, posso sedermi qua? Sempre libero qui, queste frasi che vabbè sono anche un po'... Fingi di scivolare, devi prendere la valigia, la cappelliera, scusa, e gli cadi in grembo. Aiutare, esatto, e gli cadi in grembo. Addosso con la valigia, con tutto quanto. Nella Città delle Donne di Fellini inizia che Mastroianni entra appunto nella toiletta angusta di un treno e prova ad avere un atto d'amore con la protagonista, che in realtà... fa imbizzarrire un po', poi lui la segue e entra nella Città delle Donne. Il treno è un luogo di incontri onirici in cui la consumazione è talmente artefatta, rarefatta, impossibile, che fa parte del gioco di testa. Non però succede lo sai mai. Che mi è successo a me in uno dei viaggi sul treno? C'era un bel ragazzo che era seduto un po' più avanti a me, ci siamo iniziati a guardare. Io poi dopo un po' non guardo più perché dico sì, vabbè, tanto guardare, senza uno poi arriva al punto che ti devi fare i cavoli tuoi e poi se vedi che continua allora ok. Siamo iniziati a guardare così, questo gentile, carino, tutto va. Che ha fatto di gentile oltre a guardarti? No, ho capito, è venuto lì, mi ha chiesto delle cose così passando, poi si è andato a sedere dove stava prima, insomma, non è che è venuto vicino. Allora io stupidamente, infatti non lo farò mai più, ho pensato, siccome dovevo per me scendere, ho visto che lui stava scendendo, mi ha detto io sto scendendo qui, ok, e io dico, ah, forse si sta dicendo che sta scendendo lì, magari sei scesa anche te. Sono scesa anch'io, ma lo sai che sono scesa anch'io. C'era un'altra donna a aspettare. No, peggio, sono scesa, mi fa, ah, anche te stavi scendendo qua, bene, bene, beh, è stato un piacere, ciao. Sto cavolo, sto no, cosa. Scusa, devi essere fiera di te stesso. Ma infatti hai rischiato, sì. Sei una donna che ama rischiare, sì, fatto però poi bene. C'hai un momento in cui ti rendi conto che stai sul binario, che il treno è andato, tu dici, bene, devo fare un'ora in più magari per arrivare a casa. E beh, non ne valsa la pena del rischio. Mi guardo intorno. Vabbè, è un gioco d'azzardo. Lui cretino perché potesse un pochino più, sì, intraprendente. Sì, esatto, perché poi magari, cioè, fai il gentile, tutto quanto, poi non pensa l'uomo ormai, non pensa più che la se donna se butta magari, l'amo la donna a bocca. Esatto, a volte, oh, ma che stai a fare? No, no, non... no, ma io stavo scherzando, stavo affrettando. Se posso dirti una cosa, capito? Capita a persone che amano essere, sono empatiche e cortesi, molte volte non ci pensi. Sei gentile, sì. Una donna pensa tu sia galante. Sì. Purtroppo confondi, sì. Io fra l'altro poi sono una persona maliziosa, sboccata, dico sempre doppi sensi e allusioni. Molte volte dà l'impressione che sia un provolone o un marchione, sì. Ma in realtà non è così. Poi magari quelle donne a volte è normale, ci ripensano, dico, ah, beh, forse quella cosa vuol dire quella cosa, quel gesto voleva dire. Però magari non voleva provarci per non essere troppo invadente, allora tu vai lì, ciao, ciao. È come l'uomo che si sente in dovere di provarci con la donna che è posturialmente seduttiva. Dice, ma scusa, se io mi vesto, sì, così, certo, e sono gentile con te, mica vuol dire che te la devo dare per forza. No, però magari la donna dice, ok, però perché non mi ha guardato nemmeno? Cioè, vabbè, è un gioco vecchio come il mondo. Si faceva sulle carrozze, si faceva per le strade e si fa sui treni. Prima di scendere, fermata che non è la mia, non dico che ci penserò due volte, però sarò più attenta, insomma. Io fra un po' scendo, su scendi, ma io vado per i fatti miei, ecco, che devo prendere un altro. Ma lo sapevo, perciò non mi stavo aspettando niente, nessuna aspettativa questa volta. Però almeno allietarmi con la chitarra fino a che arrivo potresti farlo. E vabbè, dai, tanto ormai. E che mi suoni? Insomma, che ti suono? Sì. Adesso, beh, qualcosa che ha a che fare forse con queste cose, dai. Non lo so. Blue jeans, white shirt, walk into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. Yes, it's fresh, it doesn't sick, it's got cancer. You son of a pump rap, I grew up on it, but you fit me better than my favorite sweater. And I know the love is mean, the love hurts. I still remember the day we met in December. I will love you till the end of time. I will wait a million years, promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those bitches before. Say you remember, say you remember. Oh baby, I will love you till the end of time. Questa volta non posso dire che ho incontrato per caso il viaggiatore misterioso. Sono andato a cercarlo. Sono andato a cercarlo perché è la persona ormai più richiesta. Da quando ho cominciato a viaggiare in treno per la radio e raccontare i viaggiatori del treno, non c'è mai stato un viaggiatore che ha avuto un così ampio consenso, una così ampia richiesta di nuovi contatti, nuovi racconti, quanto il nostro viaggiatore misterioso. Ormai lo chiamiamo Marco Polo. Di lui non sappiamo null'altro che quello che lui ci racconta. Di lui non abbiamo nessuna prova di certezza che quello che ci racconta corrisponda a realtà, se non l'interpretazione che può fare ognuno di voi ascoltando la sua voce. Mi ha detto in un attimo che io non ho registrato e che non ascolterete mai Dice: Nicoletti, ma perché dovrei prenderti per il culo? Perché dovrei dirti cose che non ho vissuto? Perché dovrei immaginare qualcosa che in realtà non fa parte della mia vita? Dammene una ragione, a me cosa mi importa? Tu ci sia o non ci sia, per me è totalmente indifferente. Io continuerò a seguitare, a viaggiare nel corso della mia vita, per quello che ancora la mia vita mi darà di tempo, di fiato, di forze, e poi vorrò andare a prodare in un paese lontano e lì rimarrò. Io posso fare a meno del mondo, posso fare a meno di voi che mi ascoltate, posso fare a meno di te che mi fai domande. Ma nemmeno in Libia è mai stato? In Libia sono stato poco tempo, perché sono andato a interessarmi della Lodigiani che voleva alcune protezioni, ma non le hanno mai date. La Libia, si faccia conto che un giorno in Libia, a Bengasi, a Tripoli e non so quale altra città libica, parlava Gheddafi contemporaneamente. Io ho pensato fosse in conferenza video, invece aveva 5 sosia, capito? Beh, com'era la Libia in quel tempo, però, il tempo di Gheddafi? Ma cosa vuol dire? È un deserto elevato, non c'è niente, quel poco di buono che è stato costruito l'ha fatto il fascismo, le imprese italiane, c'è i camionisti che in Libia non ci vogliono andare, lo sa? Beh, oggi più che mai, immagino. Ma anche prima, perché sequestrava il camion tutto con scuse e li spedivano indietro. Perché questo? Rubava materiale, camion e tutto. Rubano le Mercedes a Genova, le trovano perché ormai c'è una gru che pesa il container, tra container e peso dell'automobile, tara tutto, se pesa di più o di meno, vedere, perché fanno anche traffici. Spariscono 14, 16 ore, 20 ore, sono a Bengasi, a Tripoli, le sbarcano e c'è un mercato all'aperto e le vendono direttamente. Sono tutte macchine di grossa cilindrata. Vabbè, bisogna avere una bella macchina grande, se no non te la rubano per prenderla. So che ci fa. Sì, ma lì non è che la strappagano, capito? Proprio non, Libia non ha mai importato una macchina, sono tutte rubate. Tutte le macchine della Libia sono... Camion, tutto, camion militari, camion di trasporto, tutto rubato. Le imprese che vanno lì, tutti i macchinari, non li riportano mai più indietro. Si ritengono lì. E lì fa sequestro, cautelativo, scusa, levate il passaporto, lei, dopo 20 giorni che lo tengono in ballo non sapere entrare, i consolati italiani è meglio non nemmeno andarci, perché si fa da ridere, lei si fa da nervoso. L'ambasciata tedesca è l'unica seria, consolati tedeschi, ma non possono proteggere tutti, allora poi col tempo che c'è c'hanno da fare altri cazzi per i loro cittadini. Ma lei in tutti i suoi viaggi si è mai rivolto a un consolato? Ma andavo spesso io conoscevo i consoli, ho detto passaporto diplomatico. Andavo sì a Rio, ad esempio, perché mi sbagliavo, c'avevo documenti con gli indirizzi di Milano e di Genova, passaporto su carte di identità, carte, insomma, lì basta tirare fuori un po' di dollari e fare anche il certificato di bordo. Sai che la prima società in Brasile che ha fatto i soldi era quella dell'anonimato, cioè lei partiva, non era più Nicoletti, non era più giornalista, non sapevano più, arrivava un certificato di morte e niente, lei era nuova vita. Un nuovo nome, un nuovo documento? Sì, se si ricorda che dopo 25 anni hanno beccato quelli lì che avevano fatto la rapina al treno, erano tutti a Rio a fare la bella vita. Bene, io la saluto intanto, per oggi diciamo che le vie si separano. Le a auguro presto. Buona giornata. Alla prossima, arrivederci. Il treno va. Ecco ormai completamente sfatata la mitologia che le audiolettere che mi mandano donne prese da sensi amorosi siano per me un provolonico indugiare per essere morboso eccitatore di pensieri sull'intimità femminile. Sono già 2 o 3 settimane che mi scrivono uomini che rispondo soltanto a uomini, come questo signore che anche lui ha un dramma d'amore e un cuore sanguinante da pormi come oggetto del mio giudizio, che sicuramente lo porterà alla fase estrema del suo disfacimento. Caro Gianluca, Ho visto che hai dato spazio anche alle mail che ti arrivano da ascoltatori maschi e ho deciso anch'io di scriverti. La mia storia non riguarda tradimenti e simili, ma come l'ascoltatore della precedente settimana, temo di essermi innamorato della persona sbagliata. Lei è la titolare di uno studio di architettura, uno studio abbastanza noto della mia città, creato dal padre, e che lei ha, diciamo così, ereditato. Lavorando io in un settore attiguo al suo, ho negli anni avuto la possibilità di collaborare con lei per diversi progetti e di passare diverse ore insieme. Lei è una quarantenne molto bella, ma anche, e forse proprio per questo, sfuggente. Percepisci che è abituata a nascondersi dietro sorrisi e frasi di circostanza, abituata ad essere impermeabile a chi la lusinga per interesse o per seduzione. A molti non sta simpatica. So bene quello che le dicono dietro, la bella figlia di papà che non sarà mai all'altezza del padre. Ma a me questo non interessa. È negli interstizi delle ore di lavoro che invece ho colto qualcosa di lei che inizialmente non avevo notato e che ho imparato ad apprezzare. E così si è stabilita una bella complicità, perché non si sente oggetto di desiderio o di interesse. Ridiamo spesso insieme e finalmente vedo in lei la schiettezza, la simpatia e anche quella parte più dissacrante della sua persona che il ruolo la costringe a velare. Ok, e ora veniamo alle note dolenti. Pur non volendo, mi sono innamorato di lei. È inutile girarci intorno. Qual è il problema? Dov'è il tormento amoroso? Hai conosciuto una donna che ti piace, vi frequentate, e nasce una simpatia, una volta tanto nasce sul terreno concreto, reale, degli sguardi, delle carezze, delle annusate, del vedere la postura di una persona e non soltanto sull'illusione di quello che si scrive via chat, che è molto fantasmatico rispetto alla realtà. Quindi ti stai innamorando di questa donna? Bene, immagino che mi dirai adesso che hai fatto il passo successivo, ti sei dichiarato. Con lei abbiamo cominciato a scriverci e sentirci anche fuori dal lavoro, su WhatsApp o al telefono. Uno scambio continuo. Ma non era mia intenzione continuare a vivere questa amicizia nascondendo i miei sentimenti. Anzi, ero praticamente a un passo dall'uscire allo scoperto. Avevamo progettato di passare un weekend insieme in Toscana a febbraio, perché ci saremmo trovati entrambi a Firenze per una fiera. Cosa è successo? Perché parlo al passato? Tutto è precipitato, almeno per me, quando 10 giorni fa lei ha annunciato a tutti i suoi amici il suo matrimonio. Sì, ha annunciato il matrimonio con un uomo molto più grande di lei, un imprenditore di cui mi aveva parlato sempre nei termini di un'amicizia e sempre con un certo distacco. Addirittura una volta avevo seguito una telefonata in cui lei, mentre era accanto a me, lo aveva liquidato con un certo nervosismo, dicendo subito dopo: «Oh, questo tipo non lo reggo proprio». Sì, lui la accompagnava spesso nelle serate o alle cene, ma era il classico uomo che una donna sfrutta senza nessun coinvolgimento, un uomo da presentare ai genitori, diciamo così. Sono rimasto pietrificato. Sono pronto a giurare che a lei di questo futuro sposo non interessi nulla. E allora, se fosse così, mi dirai, perché lo sposa? Non per soldi, perché a lei non mancano. Non lo so, è per questo che ti scrivo. Caro mio, tu hai perso il treno e tu dici una persona che di treni da un anno e passa se ne sta intendendo. Questa ragazza sicuramente aperta e disponibile all'amore con te, sicuramente ricambiante le tue attenzioni amorose, in realtà aveva una necessità. Questa necessità, nonostante siano passati i tempi, nonostante le donne abbiano fatto passi da gigante sul terreno dell'emancipazione, si chiama orologio biologico. Se ben capisco, la sua età è sul liminare dei 40, dichiarati, reali, concreti, sorpassati, lambiti, o nella zona liminare che si arriva alla quarantina, quindi per lei è scattato l'orologio biologico. Quindi per lei la priorità è comunque trovare un uomo che dia perlomeno l'illusione che possa essere l'uomo per la vita, possa essere il padre dei suoi eventuali figli, possa essere colui che si metterà la fede al dito e metterà la fede al dito di lei. Questo risponde a delle necessità sociali. Non tanto, probabilmente ci sono, i genitori forse un po' âgés, un po' antiquati, che ancora pensano che la figlia sia una sorta di patata bollente da mettere nelle mani di un altro uomo che se la porti via, ma anche dal giro degli amici, delle amiche, arrivata alla felice soluzione di una posizione professionale, arrivata alla conquista di una vita autonoma, e deve comunque avere anche il gadget conclusivo perché le sue aspettative siano complete. dopo le vacanze, dopo l'automobile, dopo le borsette, dopo l'autonomia, dopo la casa, dopo il mobilio, dopo il giro delle relazioni, dopo l'importante storia del passato, avere un uomo da presentare come l'uomo che si sposerà. E quindi, ahimè, te non hai avuto la perspicacia e l'attenzione di capire che era una pera matura pronta a cadere dall'albero e non chiedeva altro un uomo che la sposasse. Io non ho avuto più il coraggio di parlarle, se non per cose riguardanti il nostro lavoro. Lei però ora mi sembra più distaccata anche nei miei confronti. Forse sente il mio imbarazzo. Non lo so, io sento che c'è qualcosa che non quadra. E se si trattasse di un reciproco e tacito accordo? Un matrimonio di interesse, diciamo così. Tu come la vedi? Io avrei la tentazione di presentarmi il giorno del matrimonio in chiesa e dire la mia davanti a tutti, come nei film. Ma so che non lo farò, perché alla fine la vita è la sua e perché devo ammettere la mia sconfitta. Non fare gesti affrettati. Cosa ci guadagni? Probabilmente questo matrimonio ha delle basi negoziali già belle consolidate. Probabilmente la tua amica benestante ha trovato un uomo altrettanto benestante, o che perlomeno come stato sociale soddisfi la sua richiesta di uomo da presentare in società, di uomo da portare alle serate con le amiche, di uomo che l'accompagni agli aperitivi, alle cene, alle vacanze, di uomo con cui appunto stabilire dei percorsi ludici, di uomo da presentare come solido punto di riferimento alla sua vita. Può offrirgli tanto e altrettanto? Pensi di essere un antagonista sufficientemente dotato per andare contro a quest'uomo che ormai avranno già concluso tutto, saranno stati dal notaio, avranno fatto la divisione dei beni, avranno fatto l'assegnazione, i genitori avranno definito le case, avranno definito il viaggio di nozze, avranno definito tutto da qui ai prossimi 2 o 3 anni, in cui probabilmente sarà anche messo in calendario la gestazione e la fabbrica di 1 o 2 bambini, sì, perché l'orologio biologico scatta anche per questo. Qual è il tuo problema? Ti piace questa donna? Ti è rimasto il sapore amaro delle rose che tu non cogliesti? È questione di tempo. Aspetta, non l'avrai mai come sposa, ma l'avrai come adultera. Aspetta un attimo, abbi fede, abbi pazienza, fa che si stabilizzi, fa che entri nella sua casa, fa che entri nella sua automobile, fa che il marito cominci a fare degli importanti viaggi di lavoro, perché naturalmente avrà delle ambizioni da coltivare, e la troverai pronta, ancora una volta, come pera matura, pronta a cadere dall'albero, e se sarai bravo, coglierai quel frutto.